Ancora più saldi a MacArthur Glen la Reggia Designer Outlet. Non lasciarti scappare gli extra sconti sui prezzi outlet dei fashion brand più amati e vivi tutte le emozioni di un'estate di shopping. Vieni a trovarci, MacArthur Glen, Destination Joy. E scopri Art Safari, un'invasione di animali colorati che farà divertire grandi e piccini. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Quando eravamo futuro qui su Runtime Radio, eccezionalmente di venerdì anziché di giovedì alle ore 21:30. www.runtimeradio.it per ascoltarci, e dove trovate vicino al player tante simpatiche informazioni tipo Runtime Anch'io, dove potete decidere di contribuire alla nostra radio, lavarvi o macchia se volete comprare un albero e salvare il pianeta, ovviamente nella foresta di Vargion sostenuta da Runtime, e presto troverete anche uno shop dove potete comprare tazze, magliette, cose sgace veramente fighe fatte apposta per i Runtime Lovers, che così si chiamano, i Runtime Lovers. Caro Sant'Agostino! Ciao a tutti, buonasera, e mi raccomando, veio giusci scrosche, veio... No, mi sto drogando di Eurovision Song Contest in questi giorni. Ecco, ragazzi, ne approfitto per dire che la live che sarebbe dovuta andare in onda domani sera, e invece in realtà andrà in onda la settimana prossima per due ragioni. Una, perché finalmente dopo due anni abbiamo un impegno e ci andiamo a mangiare una pizza, insomma, che ragazzi, scusate, però succede. Si ritorna piano piano con garbo e discrezione a una vita precariamente normale, diciamo così. E poi perché comunque, facendo la prossima settimana, sappiamo i risultati, abbiamo potuto lavorare gli assets, prendere le canzoni che vogliamo fare ascoltare, quindi faremo, come abbiamo fatto con Ciao 2020, faremo anche questa puntata sull'Eurovision Song Contest. Tra Carlo Sant'Agostino e Michela De Paola, che io ovviamente farò la regia e ogni tanto dirò delle imprecazioni. Davide Gatti! Buonasera a tutti, e quindi ci stai dicendo che la vita normale è mangiare una pizza, insomma? No, però io so veramente due anni che non esco di casa, cioè ragazzi, e non è per cattiveria, però insomma, devo dire, l'ho sempre fatto con diligenza e anche buona volontà, non è che mi sono mai lamentato di questo, però sai che ti dico, però alla fine... Oggi un amico nostro ha detto: ragazzi, ma se domani timidamente e con garbo ci andiamo a mangiare una pizza, e noi abbiamo subito detto di sì, proprio così, insomma. Però veramente tranquilli, cioè, non è che adesso noi siamo quelli che si vanno a scatenare. Comunque, puntata attesa, puntata che è stata spoilerata a destra e manca durante questa settimana, però non tutti hanno ben capito di che si tratta, tra i quali anche noi, ma sono convintissimo che è una puntata che vi sorprenderà mentre che l'ascolterete. E a presentarci sia la puntata che tutto il resto, insomma, salutiamo anche Roberto Tomaiuolo. Che la forza sia con voi, o lo sforzo, dipende da come siete messi. Esatto. Lo sforzo no, ancora no, dai, lo sforzo no. Beh, però avremmo potuto vedere la cassetta pirata in anticipo rispetto all'uscita del film. Esatto. In altri tempi la combinazione sì. È 1 2 3 4 5. Io però è una cosa che non ho mai capito, ragazzi, è che poi in realtà questa cosa con il digitale ultimamente è sparita, però ha resistito anche fino a qualche anno fa la cosa degli screeners, no? Quindi io, c'era sta amico mio: oh, c'è il film, quello uscito al cinema, ce lo vediamo a casa mia in videocassetta. Cioè, come in videocassetta? Sì, buono. E poi era praticamente sto Cristo che con la telecamera dentro al cinema riprendeva il film e si vedeva una merda e si sentiva peggio. Le teste di quelli davanti. Io. Gente che tossiva. Esatto. Io sta cosa, ragazzi, non l'ho mai capita. Cioè, piuttosto non me lo guardo il film, cioè, scusate, però... Vabbè, e c'hai ragione. Questa era la mia concezione. Comunque ritorniamo in bomba a Roberto Tomaiuolo, di cui tra l'altro è uscita la seconda puntata di The Lenda Cartago, il suo podcast storico, una coda di successo che incredibile. È esploso un successo incredibile già al secondo episodio, perché ha beccato chiaramente il merdone, cioè nel senso è andato a prendere quel tasto dove non c'è niente da fare. Secondo me c'è gente 24 su 24 che scrive Majorana su Google, no? ma guarda che è esattamente così, non è uno scherzo. No, ma io lo so che è così, lo so, per questo dico, cioè a un giorno di distanza, due giorni di distanza dall'uscita dell'episodio, tutta gente scrive che non abbiamo parlato di chi era, non ho capito. Cioè, non c'è, mi ricordo. Un tizio che sostiene di aver incontrato Majorana, che gli avrebbe spiegato come si fa una macchina, che ci sono le foto, un trespolo, che secondo lui è uno scherzo. Produce energia infinita senza consumare nulla e far ringiovanire altre cose. No, aspetta, io l'ho letta perché da bravo coglione che sono andato a leggere. Lui si deve documentare, giustamente. Si sono documentati. Questo qua è un tizio che dice che lui è, ma sul sito è una cosa incredibile. Sono stati ricostruiti i documenti, ovviamente falsi, ma in una maniera incredibile si è costruito i documenti dei militari che descrivono la macchina, che emette particelle di antimateria. Praticamente con questa macchina puoi mettere particelle di antimateria che vanno a colpire gli oggetti fatti di quella materia, con l'antimateria che produce li distrugge, li annichilisce. E quindi i militari gli chiedevano di distruggere i satelliti in orbita, cose di questo genere. C'è una storia che non... guarda, io sono convinto che succederà la stessa cosa quando Roberto Tomaiuolo, e lo farà perché è nelle sue corde chiaramente, farà la puntata su Tesla, cioè nel senso, lo so che succederà una cosa analoga. Non era in lista, ma l'ho aggiunta. Esatto, bravo, ha fatto benissimo. Comunque la cosa peggiore è che ci hanno dato dei giornalisti, ragazzi. Sì, infatti questa è un'offesa. E quella è la cosa scandalosa, dice che siete la vergogna dei giornalisti. Non è che siete la vergogna del giornalismo, insomma, siete la vergogna dei giornalisti. Ok, come se in realtà è una... del gruppo esatto, musicale, esatto, dei giornalisti. Esatto. È una band, infatti. Vabbè, comunque al di là della meravigliosa puntata, insomma, su Majorana, appunto, di The Lenda Cartago, che ha riscosso, insomma, tantissimo successo, ed io non potevo esimermi dal commentare, insomma, perché volevo partecipare a questo successo, e Roberto è l'autore della puntata di oggi, che c'ha un titolo un po' particolare, perché il titolo è Yoda versus Miyagi, che di per sé vorrebbe di tutto, non vorrebbe di niente. E so però che soltanto il titolo, questo è un paese straordinario, soltanto il titolo già ha scatenato delle polemiche. Voi non lo sapete, ma a me mi arrivano messaggi: ah, io se mi incazzo se dite sto cosa piuttosto che quell'altra. E quindi è proprio, esce fuori perché ancora non mi conoscono, io a me appunto, è tutto calcolato. Appunto, esatto. È quello che dicevo, esce fuori la natura di Roberto Tomaiuolo in questa cosa, che va bene, giusto così. Un programmatore, uno sviluppatore di videogiochi. Sì. Prego? No, niente, scusate, è partito un audio. Così, va bene, tranquillo, è tutto a posto. E ci frega, vai Roberto. Com'è? Quindi stamano può essere piuma e può essere ferro, come diceva il tuo compatriota. Esatto. E questa volta è stata ferro, no? Non mi ricordo. Vabbè, è stata sì. Ferro. No, è allora. Stata piuma perché aveva fatto una puntura. Ah, già, è vero, bravo. Ammazza. Le cose per correggere sulla romanità. Ma che schifo, guarda, che schifo. Vabbè, pure è d'attualità la puntura. Comunque, sì, il titolo è quello. Il bello, la cosa buffa è che a me è venuto in mente così, perché dopo aver fatto tutta roba abbastanza seria, la puntata su Chernobyl, le due di The Lenda Cartago e quelle che vedrete, che comunque spesso parlano anche di avvenimenti drammatici e cose del genere, ho detto: questa nuova puntata facciamo una cosa un pochino più leggera e scherzosa. Credetemi, non ci avevo pensato, mi è venuto in mente Yoda contro Miyagi, poi ho fatto una ricerca in internet e questa cosa è stata fatta 100.000 volte. Ci sono trasmissioni anche di Sci-Fi Channel, cose del genere, che hanno fatto Yoda contro Miyagi, e quindi sono rimasto abbastanza divertito. Allora, il fine di questa cosa è divertirci, quindi chi l'ha presa seriamente. Insomma, non ha compreso lo spirito che vogliamo metterci, anche perché vedremo che alla fine è assai assai probabile che solamente per un fatto temporale la figura di Miyagi sia copiata in gran parte da quella di Yoda, come anche altre. Però a me piace questo scontro al vertice, quindi comunque magari lo terremo un pochino come tale. E anticipiamo comunque che purtroppo per Miyagi nei vari sondaggi che abbiamo fatto è andata male. Yoda è andata male. La cera non è bastata, quindi Yoda stravinto. Yoda sarà stata la forza, non so, però è la forza, è la forza. Lo sforzo. No, io poi dopo dirò la mia, perché a me piace più Yoda che Miyagi. A tutti diremo la nostra, insomma, anche tutti, perché... però a me piace più Chun, che allora è un'altra cosa che dico, è che quindi parleremo di questa cosa perché il titolo della trasmissione è divertente e abbiamo alcuni spunti che vogliamo darvi. Allargheremo un po' il discorso con altri sensei, maestri, chiamateli come volete. Uno che ricorda moltissimo da vicino gli altri due, poi almeno un altro paio per allargarci. E poi la domanda che mi ponevo era: ma come mai negli anni, soprattutto 70 e 80, sono nate queste figure? Esiste ancora la ricerca spasmodica di un modello, di un maestro? Su Yoda si sono scritti libri, esistono libri di filosofia di Yoda. Se andate su Amazon, io uno me lo sono anche comprato, è anche divertente e simpatico, sulla filosofia di Yoda. Vorrei dire sì, dei Cavalieri Jedi, ma più di Yoda che dei Cavalieri Jedi, se vogliamo. Perché era il più iconico, poi in particolare, no? Cioè, nel senso, certo, è evidente. Poi nei primi film, Cavalieri Jedi erano secondari rispetto alla figura di Yoda e l'insegnamento a Luke. Assolutamente sì. Lo stesso per Miyagi, esistono dei libri che parlano della filosofia di Miyagi. Poi, come per tutto, esistono libri di business che ti dicono: fai il business o fai il manager come Yoda, quello c'è anche come Biancaneve. Però certo. Questo per dirvi l'importanza del terzo incomodo, che è Chun, quello di Remo Williams, addirittura, che poi ne parleremo, nasce da una serie a fumetti molto famosa negli Stati Uniti, praticamente sconosciuta in Italia. Anche lì ci sono storie bellissime, infinite, che tra l'altro vi consiglio per chi non lo conoscesse. Per cui a noi interessa più che altro l'universo, e Yoda contro Miyagi è uno scherzo, però andiamo avanti su questo. Quindi avete capito che in particolare questa sera parleremo di Yoda di Guerre Stellari e di Miyagi di Karate Kid in particolare, e vedremo come... Spero che l'abbiate capito, lo stiamo dicendo da mezz'ora. Se no, se non l'avete capito, vuol dire c'è qualcosa che non funziona. Io pensavo che fosse su Scomodo 64 Spectrum. Ma c'è un'analogia, la troveremo probabilmente. Pure. Posso quindi, mi permetti solo di salutare, vai, Claudia in chat, Girasole, salutiamo Girasole chiaramente, e Melanie e Mario Trani, che è un nostro ascoltatore della prima ora, ma parliamo della prima ora, parliamo dal 2010, cioè non stiamo a parlare di bazzeggole, insomma. Quindi volevo salutare tutti e prima di lasciarti però dire una cosa, voglio fare una piccola postilla mia personale, perché noi parleremo di cose che qui io in realtà, devo dire la verità, conosco poco, escludendo Yoda, perché quando ero ragazzino, e alla fine le massime, cioè le perle di saggezza di Miyagi o Remo Williams o via dicendo, alla fine la gente quasi le prendeva sul serio, no? E a me questa cosa mi... E infatti, come diceva Roberto, libri, tesi, cose, insomma, che alla fine ci possono anche stare, no? Però io vedevo i ragazzi della mia età che la prendevano sul serio sta cosa, cioè c'era un po' questo mito della figura del saggio nel cinema degli anni Ottanta, che a me non è che proprio me, devo dire la verità, mi sconfifferava tanto. Però poi in realtà, in effetti, oggi a guardare la cosa è anche divertente, insomma. Niente, volevo fare sta premessa, perché se voi parlate di Remo Williams, io non so neanche, cioè il film non l'ho proprio visto, cioè non so proprio cosa sia. Male. Lo so, devi guardarlo, ma ci arriviamo. Ok. E io qui allora ti butto. Non è importante da dove si prende l'ispirazione, non c'è un'ispirazione nobile e una scarsa. Se Yoda, uno pensa, o chiunque, che dica delle cose giuste, va bene anche prendere Yoda come ispirazione. Sì, chi se ne frega. Cioè, a me piace, tra l'altro. Figurati, Yoda è un mito assoluto, quindi non esiste provare. Esatto, ma quindi, o non fare. Certo. Quindi abbiamo detto. Ora penso che abbiamo capito che parleremo in particolare di Yoda e di Miyagi. Okay. Quindi Guerre Stellari e Karate Kid. E vedremo, partiamo dal vedere quali sono i punti che hanno in comune. Poi allargheremo l'attenzione anche ad altri maestri e vedremo un pochino di capire, di discutere, se riusciamo ad arrivare, da dove nasce questo filone, perché ha avuto così successo. Io intanto magari sul gruppo diretta Runtime Radio su Telegram, che ricordiamo, chi ci vuole seguire vada sul gruppo diretta Runtime Radio su Telegram, se vuole interagire con la trasmissione, mando la foto del maestro definitivo. Ok, bravo, bravo, sì, okay, bravo, esatto. Ho messo la foto, e commentate, diteci cosa ne pensate. A noi piace interagire, ragazzi, quindi per sì, favore, sì, lo scopo sarebbe questo anche, certo. Vorrebbe essere, se no non faremo la live. Vai, Rob. E quindi vediamo le similitudini di, avete capito di chi? Bene. E se ci sono similitudini fra Miyagi e Yoda, come non vedere le similitudini fra Daniel San e Luke Skywalker? Beh, certo. Daniel è il giovane Luke Skywalker nella trilogia originale di Karate Kid. E come non vedere un'analogia qui lievemente diversa fra Johnny Lawrence di Karate Kid e Han Solo. Entrambi questi personaggi sono spinti all'inizio da una specie di cinismo ed un certo pessimismo sul mondo, e questa è una cosa, la canaglia, no? La classica canaglia, poi alla fine. La classica canaglia che poi però alla fine un po' si redime, canaglia non fino in fondo. Ma quindi quali sono ancora queste similitudini? Sia Miyagi che Yoda condividono lo stesso tentativo di insegnare a un principiante fastidioso, incapace e rompipalle, la raffinata arte della difesa. Yoda ha circa 950 anni, ma anche Miyagi è molto vecchio, esatto, forse 900. Anche più vecchio di Yoda. Sì. È più vecchio sia dentro. Miyagi, è vecchio dentro. Sia Miyagi che Yoda parlano con un accento che rende impossibile comprenderli. Miyagi ha ispirato molti giovani a imparare la nobile arte del karate. È vero. Yoda ha frustrato milioni di persone che cercavano di usare la forza per avvicinare il telecomando. È vero. Entrambi scrivono i loro nomi consonante vocale. Miyagi zoppica, Yoda vacilla. Entrambi utilizzano insegnamenti non convenzionali. Miyagi usa cose come dai la cera, togli la cera. Yoda fa stare il suo allievo sulla sua testa mentre si tiene in equilibrio su un piede e impila pietre. Oppure ci viene dato solo un nome. Lo fa correre con lui sulle spalle anche, no? O lo fa correre con lui sulle spalle. E quindi Yoda combatte il lato oscuro. Miyagi combatte una forza altrettanto malvagia che il Cobra Kai, chiaramente, che è anche peggio del lato oscuro da un certo punto di vista. Adesso un po' più seriamente. Quindi le somiglianze, che poi alla fine sono quelle, anche se ho detto in maniera scherzosa, emergono fra Daniel LaRusso e Luke Skywalker, e fra Yoda e Miyagi. Luke e Daniel hanno circa la stessa età quando li vediamo apparire per la prima volta, quindi 17-18 anni. Gli attori hanno circa la stessa età, quindi Mark Hamill e Ralph Macchio, che è circa 20 anni quando li hanno interpretati. Entrambi cominciano i film come adolescenti pessimisti e lamentosi, ignari del loro potenziale. Qui ci sono, facciamo qualche piccola citazione per dimostrare queste cose. La zia di Luke chiede a Luke: dove stai andando? E Luke risponde: sembra che non andrò da nessuna parte, finirò di pulire quei droidi. La mamma di Daniel LaRusso dice: ci siamo, questo è il capolinea. Daniel risponde: lo dici a me? Questo all'inizio del film. Sia Daniel che Luke sono senza padre. Quello di Daniel è morto quando viveva ancora nel New Jersey. Quello di Luke, vabbè, non ho bisogno di dirvi cosa è successo al padre di Luke. Vabbè, però per lui era morto praticamente. Esatto. Forse pure peggio. No! Daniel lascia l'unica casa che abbia mai conosciuta, nella scena di apertura di Karate Kid, è lui che sta lasciando il New Jersey. E Luke lascia la sua casa di, come si chiama, Tatooine, a bordo del Millennium Falcon, prestissimo, insomma, all'inizio del film. Entrambi i maestri fanno la loro prima apparizione come degli indifesi vecchietti. E vi ricordate Yoda che finge di essere una bestiola in quel cunicolo e Miyagi che pulisce, fa il portinaio, una cosa del genere, pulisce biciclette e pota bonsai. Tutti i loro addestramenti cominciano in modo strano e loro non capiscono il metodo di addestramento e sono lì lì per ribellarsi, quindi dai la cera, togli la cera, la pittura e tutte le altre amenità di Miyagi, o mettiti al contrario sulle pietre, corri con me sopra e tutte le cose che gli fa fare Yoda. Tutti e due si ribellano, vi ricordate, e i loro maestri sono costretti a spiegargli a che cosa davvero serve quel tipo di addestramento, quindi un addestramento più profondo di quello che loro superficialmente ritenevano di avere. Tutti e due, Daniel e Luke, attraverso l'allenamento e il lavoro diventano dei potenti guerrieri, ma tutti e due devono scontrarsi col nemico prima di essere pronti. Chiaramente Luke dovrà andare via, come vi ricordate, a metà dell'addestramento, perché c'è quella lievissima cosa della morte nera che sta per distruggere la galassia, e invece Daniel sta per essere ammazzato dal Cobra Kai e deve fare il famoso torneo di karate, tutti e due senza aver finito l'addestramento, e Luke chiaramente poi affronterà Vader prima di essere davvero un cavaliere Jedi. Dopodiché infatti ricordiamoci quello che dicono. Daniel dice: non so se conosco abbastanza bene il karate prima di fare il torneo, e Miyagi gli risponde: è una sensazione corretta. Daniel dice: di sicuro sai come far sentire un ragazzo sicuro di sé. E Miyagi risponde: tu ti fidi della qualità di ciò che sai, non della quantità. Dopodiché, adesso abbiamo visto i due allievi, parliamo dei maestri. Quindi abbiamo Yoda e Miyagi, qualora vi fosse sfuggito di cosa stiamo parlando. Esatto. Quindi, tolta che uno è verde, uno è verde e uno è giallo, detto, quindi che tutto sommato sono della stessa fascia cromatica. Stai, diciamo, facendo body shaming. Absit in nullius verbis, senza body shaming, però si somigliano molto, hanno veramente anche fisicamente, se vogliamo, alcuni punti in comune, almeno simbolicamente, diciamo, sì, ma, vabbè, cioè, difficile somigliare a Yoda. Il fattore che narrativamente la costruzione di quel tipo di storie era costruita così, ma valeva per tutti, cioè erano standard. La capacità stava nell'essere bravi a mistificare comunque personaggi che sembra che dicano delle cazzate, invece alla fine sembra, cioè alla fine te le presentavano come delle perle di saggezza, come dici tu, insomma. Esatto. Quindi sono vecchi maestri delle loro arti, uno nell'essere cavaliere Jedi, l'altro nel karate. Forse Yoda è lievemente più vecchio a livello di anni, perché quanti ne aveva, 800-900 eccetera, ma all'interno di quello che vediamo noi sembrano essere allo stesso punto della loro vita, ognuno nella sua specie. Sì, e esatto, hanno la stessa morti, filosofia. Sì. Luke, e poi adesso questa è un'introduzione, poi parleremo di ognuno di loro e sentiremo anche qualcosa, quindi però aspettiamo un attimo. Luke dirà: va bene, farò un tentativo, e come forse ricordate Yoda dirà: no, non provare, fare o non fare, non c'è provare, non esiste provare, non esiste provare. Mentre Miyagi dirà: ora sei pronto Daniel? Sì, credo di sì. Lui gli dice: Daniel-san, dobbiamo parlare, cammini sulla strada, cammini al centro della strada, cammini a sinistra, va bene, cammini a destra, va bene, cammini al centro e prima o poi squash, si schiaccia proprio come l'uva. E col karate è la stessa cosa, o fai karate sì o fai karate no, ma fai karate forse non va bene, perché i principi oppure sono quelli, sì, esatto. Ancora, Yoda chiede: mi sto chiedendo perché sei qui? E Luke risponde: sto cercando qualcuno. Cercando? Trovato hai qualcuno, direi. Giusto. Aiutarti io posso. Luke dice: non credo proprio. Sto cercando un grande guerriero. Oh, grande guerriero, dice Yoda. Le guerre non rendono qualcuno grande. Guerra fatto grande nessuno ha. Sentite, il mio piccolo... Puma che sta protestando. Lo sento, lo sento. Vabbè, dai, è Radio Casa questo, non fa niente. È Radio Casa questo. Daniel, vediamo a Daniel. Dice al maestro: hai mai fatto a botte quando eri piccolo? E Miyagi risponde: sì, molte volte. Sì, ma non era come il problema che ho io, giusto? E Miyagi risponde: perché? Risse sono risse, è lo stesso. Sì, ma tu conoscevi il karate? Beh, qualcuno ne sa sempre di più. Vuol dire che ci sono stati momenti in cui avevi paura di combattere? Io, Miyagi risponde: sempre paura, Miyagi odia combattere. Sì, ma a te piace il karate? E allora? Allora il karate è combattere, ti alleni per combattere. E Miyagi dice: questo è quello che pensi? E Daniel dice: no. Miyagi: allora perché allenarsi? Daniel ci pensa e risponde: così non dovrò combattere. E Miyagi dice: allora hai qualche speranza. Infine, le analogie fra i cattivi, ad esempio Darth Vader e John Kreese. Diciamo che entrambi hanno preso qualcosa di buono e lo hanno deformato in qualcosa di malvagio. Vader si è rivolto al lato oscuro della forza, come immagino sappiamo. Kreese ha lo stile Cobra Kai del karate. Entrambi vestono di nero e finiscono per dimostrare che il lato oscuro non è così potente come essi pensavano. E a questo punto ti chiederei di lanciare un pochino di musica di Guerre Stellari, quelle che abbiamo, per introdurre, adesso parleremo dei singoli. Giusto per ricordare che la scorsa settimana abbiamo fatto la puntata sulle colonne sonore del cinema e c'era rimasto il file. Vai Roberto. Per cui immagino abbiate riconosciuto la musica, spero, se no cambiate canale perché... se no ve li spieghiamo da capo dall'inizio. Di chi stiamo parlando? Yoda è il gran maestro del consiglio Jedi e molto probabilmente il più potente cavaliere mai apparso per la storia dell'Ordine dei Jedi. Egli, appunto, ha più di 800 anni di storia e ha addestrato quasi tutti i giovani Jedi, prima che essi diventassero dei cavalieri o dei maestri. E tra l'altro l'unico Jedi che non ha seguito questo percorso sotto la sua tutela, che noi abbiamo visto nei film, è Anakin Skywalker, che come ricordate è stato preso come Padawan da Obi-Wan Kenobi. Anakin o Anakin? Anakin sarebbe, però vabbè. Anakin, vabbè. Cazzo, vabbè, uguale, e tu che ne sai come lo pronunciano loro nella loro lingua, qualunque essa sia. Essa sì, in basic, c'è il basic. Ho visto il film. Parlano in basic. Comunque vai, vai. E quindi probabilmente, quindi vediamo che l'unico che non ha addestrato lui è finito male, forse c'è una... non è da trascurare insomma questa cosa. Quindi vediamo alcune citazioni, prima ne leggiamo qualcuna e poi l'ascoltiamo con la sua viva voce, che è meglio senz'altro della mia. Quindi cos'è questa cosa? Vai, è sempre Star Wars. Cada citazione. Sempre Star Wars, vai. La morte è parte naturale della vita. Gioisci per coloro che intorno a te si trasformano nella forza. Dolore non avere, rimpianto non avere. L'attaccamento conduce alla gelosia. L'ombra della bramosia, essa è. Poi, arduo da vedere, il lato oscuro è. Guerra, come abbiamo detto, non fa nessuno grande. Il vigore di un Jedi scaturisce dalla forza, ma stai attento al lato oscuro. Rabbia, paura, violenza, sono loro il lato oscuro. Già. Veloci ti raggiungono quando combatti. Se anche una volta sola la strada buia tu prendi, per sempre essa dominerà il tuo destino. Se sentite il rumore di spadellamenti, sì, chiaramente sempre la versione Roberto Casa. Esatto. Vai tranquillo, non c'è problema. Non c'è problema. Non so se Yoda anche lui ha lo spadellamento, ma non importa. No, lui lo spadellamento, lui si mangiava la roba di Luke, quindi non c'era problemi. Era peggio, sì. Un Jedi usa la forza per saggezza e difesa, mai per attaccare. Fare o non fare, non c'è provare. La grandezza non conta. Guarda me, giudichi forse me dalla grandezza? Non dovresti farlo, infatti, perché mio alleato è la forza, è un potente alleato essa è. La vita essa crea ed accresce, la sua energia ci circonda e ci lega. Illuminati noi siamo, non questa materia grezza. La paura è la via per il lato oscuro. La paura conduce all'ira, l'ira all'odio, l'odio conduce alla sofferenza. Adesso vorrei sentire la sua voce, se sei d'accordo, Simone. Su cosa? Nello specifico? Certo, scelta. Vabbè, prendiamo il pezzo in cui Luke incontra Yoda. Ah, io non posso istruirlo. Il ragazzo non ha pazienza. Imparerà la pazienza. Molta rabbia in lui, come suo padre. Ero diverso io quando tu mi insegnasti. Lui non è pronto, Yoda. Io sono pronto, io. Ben, io posso essere un Jedi. Ben, dì che sono pronto. Pronto sei tu. Che sai tu di pronto? Per 800 anni ho istruito io Jedi. E il mio giudizio darò io su chi istruito deve essere. Un Jedi deve avere profondissimo impegno. Serissima mente. Questo qui, per lungo tempo ho osservato. Durante tutta la sua vita lui guardato lontano, al futuro, all'orizzonte. Mai la sua mente su dove lui era. Su ciò che faceva. Avventura. Emozioni. Un Jedi queste cose non ambisce. Tu sei avventato. Lo ero anch'io, se ricordi. È troppo vecchio. Sì, troppo vecchio per iniziare l'istruzione. Ma ho già imparato molto. È quasi venuto. Finirà lui ciò che comincia? Non tradirò la tua fiducia. Io non ho paura. Tu l'avrai. Tu l'avrai. Ecco, questo è un pezzo proprio profondamente iconico, proprio della, cioè tu l'avrai, no? Cioè questa cosa è rimasta impressa. In realtà, secondo me, il pezzo di Luke a Dagobah, non mi ricordo com'era. Dagobah, cazzo, mi avete corretto a me. Dagobah, sì, vabbè, ma io non me lo ricordo, cioè, nel senso, me lo ricordo da quando ho visto il film. e devo dire la verità, è forse la parte più poetica e allo stesso tempo più memorabile di tutta la trilogia. Cioè, c'è un significativo pezzo di racconto in questa cosa, insomma. E come dici te, Yoda in questo caso fa proprio il gran padrone dei saggi, dei maestri degli anni 70 e 80, insomma, perché tra tutte le cose che lui dice c'è, cioè, proprio io non ho paura, ce l'avrai paura, voglio se ce l'hai paura, insomma, mentre che bestemmiava in altre lingue tirando cose perché Luke continuava a dire di essere pronto. Beh, ma è lui il capostipite, gli altri sono palesemente dei riferimenti, sì, diciamo ispirati, non voglio dire copiati, dai, no, ispirati. Vogliamo sentire un attimo la musica che introduce il prossimo? Poi ci teniamo l'ultima citazione per la fine, che è quella più famosa del Signore Verde. Tu dici questa? Try to be best, cause you're only a man, and a man's gotta learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself. Never doubt that you're the one, and you can have your dreams. You're the best around. Vadi. Quindi parli, questa era You're the Best, che pure simpatica, dai, come canzone, sì, carina, classica, sì. Classica anni 80 come queste qua. Quindi il maestro Miyagi nasce nel 1925 a Okinawa in Giappone e impara il karate da suo padre, un pescatore, che lavorava per l'uomo più ricco del villaggio, il cui figlio Sato era il migliore amico di Miyagi. E lì ci fu una deroga alla tradizione locale dei padri che insegnano il karate solo ai figli, perché il papà di Miyagi, come abbiamo imparato nei vari film, insegnerà il karate anche a Sato. Però anche qui l'amicizia fra Miyagi e Sato si ruppe quando Miyagi si innamorò di Yuki, che invece avrebbe dovuto sposare il suo amico. Quindi Sato fu disonorato, sfidò Miyagi in un combattimento a morte, Miyagi, per non combattere e rischiare di uccidere il suo migliore amico, emigrò negli Stati Uniti, nelle Hawaii, dove lavorerà come bracciante, incontrerà sua moglie, anche lei bracciante, e si sposerà. Farà la Seconda Guerra Mondiale, come sappiamo, perché sarà anche decorato. E durante il servizio, però, purtroppo, sua moglie e suo figlio, appena nati, moriranno in un campo dove venivano comunque messi i giapponesi. Questa è una cosa abbastanza vergognosa e vera, che i cittadini giapponesi, molti cittadini giapponesi, solamente perché comunque erano ancora in Giappone, furono praticamente internati, insomma. Quindi moglie e figlio moriranno, e questa fu una cosa che lo perseguitò per sempre, insomma, chiaramente per la vita. Vediamo qualche di lui e leggo qualche citazione, poi sentiremo anche le 12 perle di saggezza, no? come non sentirle, esatto. Tutte 12, no, ma sono simpatiche. Quindi, risposta importante solo quando fai domanda giusta. Per un uomo che vive senza il perdono nel cuore, vivere è punizione peggiore di morte. Picchiare non è giusto, ma se sei obbligato a picchiare, vinci. Meglio essere dispiaciuti a stomaco pieno che a stomaco vuoto. Quando cammini su strada, questa l'abbiamo detta, se cammini a destra va bene, se cammini a sinistra va bene, se cammini nel mezzo, prima o poi rimani schiacciato come grappolo d'uva. E fino a, ne leggo un'altra, poi magari sentiamo il file. Regola numero 1, karate è per difesa soltanto. Regola numero 2, prima impara regola numero 1. Mi pare giusto. E allora andiamo anche qui con il file, poi magari commentiamo e sentiamo anche Carlo e Davide, prima di passare poi agli altri. Sì, devo dire, tra l'altro, adesso faccio partire il file che avete sentito prima, in realtà cioè, la qualità in generale è dovuta da x mille fattori, compreso il fatto che i file l'ho dovuti anche ricomprimere per renderli radiofonici, ma devo dire che la colonna sonora originale della versione italiana di Star Wars, cioè quello proprio originale, faceva veramente cagare, diciamoci la verità, insomma, quindi, diciamoci le cose come stanno. Come stanno? È sempre ultima soluzione per problema. Per fare miele, la giovane ape ha bisogno di fiori freschi, non di prugne secche. Se riesci ad acchiappare mosche con bastoncini, puoi realizzare qualunque cosa. Devi solo aver fiducia in quadro. Come so se il mio quadro è quello giusto? Se lo senti nascere dentro te, quadro è sempre giusto. No. Odore cattivo, ma buona guarigione. È meglio imparare equilibrio. Quello è la chiave di tutto. Se equilibrio è buono, karate è buono e tutto va bene. Se equilibrio è cattivo, è meglio rinunciare e andare a casa. Hai capito? Quando cammini su strada, se cammini su destra, va bene. Se cammini su sinistra, va bene. Se cammini nel mezzo, prima o poi rimani schiacciato come grappolo d'uva. Crede davvero che io potrei vincere? Non ha importanza. Che insegna a noi di buono l'uso del pugno? Niente, è solamente un fatto di vita. Vincere o perdere non conta. Se farai un buon combattimento, sarai rispettato. E dopo nessuno ti disturberà. Ma in caso contrario mi seppelliranno. In ogni caso il problema sarà risolto. Prima impara a stare in piedi, poi imparerai a volare. Sì. Natura insegna, non gli uomini. Sì. Tu devi avere fiducia nella qualità di ciò che sai, non nella quantità. Tutto nella vita ha un suo equilibrio. E in questo modo tutto va meglio. Karate qui. Karate qui. Karate mai qui. Poi, però non dimenticare che patente non può mai sostituire occhi, orecchie e cervello. Naso, bocca. Allora, mi permetti di dire una cosa? Aspetta. Dico solo una cosa, poi dopo. Io devo dire che entrambi i maestri, sia Yoda che Miyagi, escludendo il fatto che Star Wars, la trilogia classica, è devastato da una localizzazione più che da un doppiaggio, che è veramente infame. per certi versi ricordiamo insomma la famosa storia della guerra dei quoti e troppe ce ne sono, insomma, diciamo così. Però devo dire che sia Yoda che Miyagi invece hanno il vantaggio di un doppiaggio veramente bello, cioè veramente studiato, veramente personificante, oserei dire. Non so se siete d'accordo su questa cosa, perché comunque Yoda a 40 anni di distanza tu te lo ricordi, ti ricordi la voce di Yoda, cioè questa è la cosa incredibile. Sì. Però allora posso dire allora la dico anche perché purtroppo è arrivato il messaggio che non volevo arrivasse e quindi tra 10 minuti devi purtroppo andare, certo. Ragazzi, per motivi familiari devo andare, devo uscire dalla trasmissione, però una cosa c'è da dire, che la figura del saggio, del maestro saggio cinese, soprattutto cinese, il vecchio saggio cinese, è una figura che precede sia Yoda che Miyagi che tutti quanti, ed è una figura nella storia, diciamo, della letteratura e della filmografia in generale, che un po' è sempre esistita. Esiste in mille, cioè mi vengono in mente 1000 film dove c'è il saggio cinese, il dice il vecchio saggio, è vero, no? è vero nei fumetti, nelle cose, sì, sì, sì. Anche nei cartoni animati, vecchio saggio animati, eccetera eccetera. Io ho avuto, tra le 1000 milioni di cose che ho fatto, e qui apro e chiuso una parentesi, perché qua siamo un gruppo di 4 pazzi che comunque noi 4, io ci penso ogni volta, cioè da quante cose, non solo io ma tutti noi, cioè ogni volta scopro una roba che ha fatto Pizzi che non sapevo che avesse fatto, una cosa che ha fatto Davide che ha fatto 8 milioni di cose, una cosa che ha fatto Robert, cioè vabbè, forse è anche per questo che siamo qui a raccontarcela, a divertirci, perché cioè, se sapevamo, di noi, se diciamo, sapevamo tutto era palla, insomma. Sì, no, ma abbiamo fatto di tutto, un po' di tutto nella vita, ed è una cosa bella. E tra le 1000 cose anch'io che ho fatto, ho studiato, non so se l'ho mai detto questo, ma io ho studiato cinese, lingua cinese, non lo so benissimo, però un po' la so, quindi ni hao ka luo wo shi italian, ho appena detto mi chiamo Carlo e sono italiano. E, ma probabilmente se lo dici tu esatto. Studiando la lingua cinese ho scoperto una cosa. Da dove deriva il fatto dell'idealizzazione del modo di parlare che abbiamo dei cinesi? Uno, vabbè, il fatto che loro non hanno le declinazioni dei verbi e non hanno i tempi dei verbi e non hanno gli articoli. Quindi il fatto che loro parlano sempre con i verbi all'infinito è dovuto a quello, perché in realtà in cinese non esiste il passato, il presente e il futuro come verbo, ma esiste solo il tempo all'infinito. E quindi declinano le frasi con io andare domani, io andare ieri, eccetera. Ma l'altra cosa interessante è che la lingua cinese è una lingua completamente diversa dalle lingue. Le lingue orientali sono molto diverse come costruzione delle lingue occidentali. Le nostre lingue sono lingue fonetiche, cioè che è difficile che da noi un suono, lo stesso suono, voglia dire due cose diverse. Invece in cinese lo stesso suono vuol dire tante cose diverse a seconda del tono col quale lo pronunci. Per dirti una cosa che insegnano all'inizio di quando studi cinese è i 4 toni base, e devi dire ma, ma, ma, ma, e dici in sequenza cavallo, insultare, canapa e mamma. Dici 4 cose e assorda anche, esatto, assorda. E quindi il tono, a seconda del tono con cui dici un suono, la parola, il suono cambia significato, che per noi è una cosa assurda, perché noi il tono invece lo usiamo per dare il senso di imperativo e interrogativo, non di cambiare il significato della parola a seconda del tono. Questo però cosa provoca? Che il fatto che cambiando il tono cambia il significato della parola, anche per gli stessi cinesi quando parlano, e quindi mettono insieme tanti suoni, diventa difficile a volte cogliere i toni delle sillabe, e quindi sono abituati a parlare per frasi fatte, cioè un assemblaggio di parole che vogliono dire la stessa cosa, che messe insieme danno il significato di una frase, no? Per dire ma ma hu hu, che vuol dire cavallo cavallo, tigre tigre, vuol dire le cose stanno andando un po' così così, no? Per dirne una. Ma ci sono tante frasi che sono composte essenzialmente da quattro sillabe, quattro toni, che danno una frase fatta, una frase preimpostata. E il fatto del vecchio saggio che parla per proverbi, noi abbiamo i cinesi, i saggi cinesi che parlano per proverbi, pronti, no? Cioè tu gli fai la domanda e loro dicono l'acqua è calma la sera, no? Del genere, per dire una, o il cielo di notte è pieno di stelle. Tu gli facevi la domanda, non so, cioè, come tu mi stai, facendo capire che è come la puntata di The Next Generation, come a Jericho quando cadono le mura, cioè, è meraviglioso. Esattamente. È tratta dal capire la lingua cinese o comunque le lingue orientali in generale. Quindi loro parlano per frasi fatte predefinite, parlano per proverbi alla fine, cioè le costruzioni grammaticali cinesi sono un insieme di frasi fatte per dire una determinata cosa. Questo ha creato nei secoli la traduzione del modo di parlare cinese, questo aspetto di come parlano e come poi si esprimono nei film il vecchio saggio, che deriva dalla figura del vecchio saggio cinese, stesso Yoda, che parla sgrammaticato, Miyagi, eccetera, eccetera, che parlano in questo modo qua. Questo è solo per dare l'aspetto storico, diciamo, di questa cosa. Poi, è figo, è una bella inquadramento, perché in realtà io sono d'accordo in maniera completa con entrambi, cioè nel senso che è vero che quella figura esisteva, e questa tua spiegazione aggiunge anche sulle modalità in cui parlano, no? Cioè, quindi questa perle di saggezza che in realtà vanno per metafora, no? Però allo stesso tempo devo dire che Yoda comunque, concentrando tutti questi elementi, ha dato spunto poi a quella che è stata poi una tendenza negli anni 80, negli anni a venire, quella di costruire comunque il saggio goffo, certo, che parla per metafore e che poi alla fine è quello originale Yoda, cioè mistifica, secondo me in realtà deriva, come detto, da questa figura più antica, però sì, poi Yoda è quello che ha avuto successo, che l'ha sdoganata, diciamo così, esatto, ok. Bene. Niente, io tra due minuti devo andare. Quindi allora salutiamo Carlo. Stoppa la registrazione. E che la forza sia con te. Sempre. Grazie a tutti. E saluta la signora. Ci sentiamo presto. E ricordiamo quando è che siamo con Archeologia Informatica, Simone? Martedì sera, ore 21:30. Con 21:30 con quella sui computer. Archeologia russi, Informatica, giusto? I computer oltre la cortina di ferro, sì. E Carlo, chiaramente non diciamo chi, ma stiamo preparando una super intervista che anche quella provocherà, sono certo, un sacco di reazioni, però non diciamo niente, faremo dei teaser, dai, butteremo delle immagini misteriose, poi insomma piano piano diventerete dei giornalisti spettrumiani. Esatto. Soprattutto i giornalisti, giornalisti, esatto. Siamo la vergogna noi dei giornalisti. Buonanotte, ciao Carlo, grazie. Grazie, ciao. Ciao Carlo, buon ritorno. Sì, esatto. Buon andare a prendere, ciao. Buon andata e ritorno. Esatto. Roberto, sentiamo anche Davide, poi continuiamo magari con le spiegazioni. Ma allora, io, sai, su questo argomento qua, come dicevo anche già in back channel, che già all'inizio, ma lo diceva anche Simone, no? Ma di che cosa si potrà raccontare di questo Yoda vs Miyagi, no? Io in realtà poi quando ho letto il documento ho detto, però, la Madonna, quanta roba. Tutte queste cose. Sentendo sul titolo dicevo, fammi pensare, ci ho riflettuto due pensieri, ma niente di che, no? E invece vedo tutta questa roba scritta, dicevo, che storia incredibile davvero, non avevo mai fatto nessun ragionamento riguardo su tutto quello che ho letto, che ho visto, che ho sentito, oltre anche a quello che ha detto Carlo adesso, no? Tutta roba che fa riflettere, ragazzi. Io non ci avevo proprio pensato. Io adesso l'unica cosa a cui avevo pensato era il perché preferisco uno piuttosto che l'altro, ecco, ma non così tante analogie, così tante cose. Sono rimasto impressionato, se devo dire. Secondo me perché? Perché noi siamo non figli, noi che siamo figli degli anni 70, però in generale siamo abituati a questa generazione qua, dove le cose vengono un po' buttate a cazzo de cane, diciamo così, per usare termini in francese, no? E quindi in realtà non ci rendiamo conto che una volta nella narrativa, anche nella narrativa di intrattenimento, nel libro d'avventura, comunque gli elementi che venivano inseriti comunque con una base culturale, cioè c'era comunque un presupposto di partenza, capito? E giustamente sì. Roberto ha tirato fuori degli spunti che poi in realtà de per sé, andandoci a ragionare, poi dopo alla fine, cioè cazzo, è palese, è evidente, no? È giusto che sia così. Però cioè, esatto, non si sorprende. Non siamo abituati a ragionarci su questa cosa. È questo che vedi, quando eravamo futuro, c'è anche una funzione civica e culturale da questo punto di vista. Beh, io comunque in quel periodo eravamo tutti ragazzini, eravamo bombardati. Noi guardavamo Yoda, 5 minuti dopo guardavamo Miyagi, 5 minuti dopo guardavamo un altro film, un altro anche telefilm. Questo è vero. E quindi alla fine non avevi quasi neanche il tempo tanto di riflettere. Non dico che fosse roba un tanto al chilo, però per noi che lo guardavamo sì, per chi lo faceva invece a quei tempi lo faceva con un criterio molto più appunto narrativo, e con ci hanno studiato sopra prima di inventarsi le parole che hanno detto. Non è che le hanno dette così o l'hanno tradotto, beh, noi l'abbiamo tradotto chiaramente sì, però chi ha fatto il film l'avrà fatto in inglese, però l'ha scritto pensandoci, cioè facendo tutto un ragionamento sì. Mettendo giù una roba impegnata. C'era un lavoro dietro, sì, sicuramente. Esatto. E perché comunque si facevano meno produzioni cercando di farle con più qualità. Oggi invece veramente se ne fanno tante e si deve spendere poco, fare poco. Dice, la carne di porco, si dice, insomma. Dite quattro stronzate, inventatevi delle parole strane, gli esatto, bilaterale esatto. Curvico, che esatto. La gente non sa cosa sia, va esatto, bene. Esatto, esatto, è poi esattamente così. Sì, adesso vediamo altre cose, ma se voi ci pensate, noi ci siamo limitati a quelli della nostra epoca, ma perché Oogway di Kung Fu Panda, Pai Mei di Kill Bill non sono la stessa cosa. Vabbè, però non mi puoi mettere Kung Fu Panda con Kill Bill, però, cioè, attenzione. No, ma pure il concetto. Ma il concetto è lo stesso, guardalo bene. È chiaro che Pai Mei è un po' particolare perché Tarantino lo cala in un, come posso dire, in un mood diverso. Lui è Black Mamba, però se guardi bene ci sono comunque delle analogie. Vabbè, Oogway è verde perché è una tartaruga, quindi basterebbe quello, però è sempre lo stesso concetto. A volte sono citazioni, per me quella di Tarantino è una citazione divertita, che alla fine fa anche ridere, voglio dire, l'addestramento di questo tizio. Sì, sì, beh, ma... però vabbè, adesso. Cioè, Tarantino è uno dei registi più citati della storia del cinema, e allo stesso tempo anche lui comunque si è divertito dal suo punto di vista, insomma. Vai, assolutamente. No, ci siamo. Allora, se mi metti la prossima sigla del film che hai detto che non hai visto, quindi questa è una gravissima pecca. Lo so, hai ragione, ma anch'io qualche peccaciato è. Che poi permettimi, ma queste sigle rischiano di essere un po' tutte uguali. Un po'. Lo sono, però sono anche simpatiche. Molto, molto, molto, molto. Iconiche e simpatiche. Diciamo che questa, diciamo, tra tutti quelli che abbiamo citato anche l'altra settimana, è quella che ne esce più anonima, no? Da un certo punto di vista. Però sì, assolutamente. Vai comunque. Però all'interno del film al suo. Stiamo parlando di Remo Williams, giusto? E qui facciamo un'eccezione. Se mi metti anche la. Partiamo dalla citazione. Quindi se mi fai sentire Chun. Ok, così. Yes. Ok. Va bene, aspetta un momento. Questo è uno di quegli addestramenti in cui uno sta seduto per 10 anni e poi tu mi dici che sono abbastanza grande da spaccare un mattone con l'allo. Sei ora affidato alle cure di Chun, maestro di Sinanju. Sinanju è un villaggio in Corea dove sono nate tutte le arti marziali del mondo. Kung Fu, Karate, Jiu-Jitsu non sono altro che ombre. Sinanju è il solo. Parecchie persone intelligenti questo già lo sanno, ma a me pare che tu ne sai meno di niente. Mi capisci? Tu non hai chiesto di essere bianco, per cui forse non è colpa tua. Non hai chiesto di stare qui. Forse neanche questa è colpa tua. Perciò facciamo un patto. Io ti addestrerò per il tuo primo compito. E poi ritornerò nel mio paese. Vabbè, qui siamo proprio, diciamo, sul plagio, tutto sommato, però vabbè. Sì, allora, il film, come avete capito, tranne Simone, è Il mio nome è Remo Williams, ed è un film, secondo me, davvero divertente, quindi vale la pena di guardarlo. Qui non avete visto le immagini, palesemente perché siamo in un podcast, ma il maestro Chun ha la capacità di toccare alcuni punti di pressione, di immobilizzare, fare una serie di altre cose istantaneamente i suoi avversari, così come che lui parlava, il tizio è più o meno, il tizio era per terra che si rantolava, perché finché non lo sblocca toccandogli da un'altra parte lui si riprende, e quindi di nuovo similitudini, voglio dire, il modo di parlare, le cose di cui parla, sempre le stesse cose. Tra l'altro Carlo prima parlava di cinese, la frase che non abbiamo sentito, dopo poco furbamente lui gli dirà: ah, ma parli come un proverbio cinese. Allora lui lo riblocca un'altra volta, però in maniera ancora più dolorosa, per fargli presente che lui è coreano e non cinese. Glielo dice pure poi all'inizio. E quindi, e lui è quindi Chun, il cui vero è un killer innanzitutto, quindi questa forse è una differenza, però questo suo essere killer passa un attimino in secondo piano, se possibile. Il cui vero nome, e questo lo scopriamo però nei fumetti, non nel film, è Nuich. Praticamente Chun è al contrario, è il contrario di Nuich, e appare nel libro a fumetti The Destroyer. È, come abbiamo sentito, un maestro di Sinanju, che quindi è un'arte marziale inventata, ma anche su questo esistono dei libri che descrivono il Sinanju. So che può sembrare incredibile, però... No, ma esiste un libro per qualsiasi cosa, quindi va bene, insomma. E ci sono fan e c'è di tutto. Che sarebbe comunque questo Sinanju, che nasce in questo paese della Corea, la più letale di tutte le arti marziali degli assassini. Nel film noi vedremo Chun che schiva proiettili, fa delle prodezze acrobatiche incredibili e riesce a fare veramente tantissime cose. Come detto, può uccidere o inabilitare le persone con un leggerissimo tocco in punti strategici. Addirittura corre sull'acqua nel film Il mio nome è Remo Williams. Vabbè, allora me lo devo vedere. Cioè, mi sembra un parallelismo quasi, cioè, che per esempio, no, in Matrix Morpheus e Neo sfruttano queste cose che abbiamo visto in questo film. Qualche volta c'è un'analogia ma pure lì ci sono dei richiami abbastanza importanti, devo dire, a questo tipo di ammiccamento, in effetti. Sì, diciamo che il film è commerciale e divertente, fondamentalmente divertente. Tra l'altro appare anche Janeway, la Malgriu, credo si chiami l'attrice, molto più giovane, con un ruolo in questo film, quella di chiaramente Star Trek, la capitana di Voyager. La capitana, sì, che poi Voyager, diciamo, sì, che lei come Patrick Stewart non è mai stata giovane veramente, però va bene, dai. Esatto, sì, però qui era più, era giovane, guardabile, se vogliamo, era giovane. E la storia però che c'è nei fumetti è diversa, è molto più cattiva e triste. Sinanju era praticamente un posto dove la gente stava morendo di fame, per sopravvivere cominciò praticamente a mandare i bambini, loro dicevano, a casa al mare. In realtà li annegavano prima per non farli morire di fame. Quindi i gli adulti di questo villaggio, per riuscire a uscire da questa condizione disperata, cominciarono ad offrirsi come assassini. Affinando sempre di più questa arte, alla fine uno di questi maestri inventò questo stile che loro chiamano la sorgente del sole, quindi di nuovo Sinanju, che riesce a usare il proprio corpo per diventare il migliore di tutti. E quindi Chun, che è quello che noi vediamo, è il maestro che ha voluto invertire il suo nome proprio in segno di disprezzo per questa cosa, e quindi lui diventerà un difensore di questo villaggio. Poi Chun andrà in pensione, ma tornerà a lavorare chiamato dagli americani. In particolare nel film famoso Il mio nome è Williams, lui lavora per un'agenzia super super segreta del governo a contratto, che uccide le persone, i nemici, diciamo così, degli Stati Uniti. Quelli che non riescono a essere colpiti con i metodi della giustizia vengono eliminati da questa agenzia super segreta. E quindi comincia ad addestrare Remo Williams, che anche lui, e qui ci sono anche delle similitudini con altri film, era un poliziotto che in uno scontro praticamente viene quasi ucciso, loro lo salvano, noterete una lieve somiglianza con Robocop, lo salvano, no, la stessa cosa. Però gli cambiano nome, gli fanno una plastica facciale e lo trasformano in questo nuovo personaggio. Anche qui vediamo qualche citazione. Allora, c'è una lieve differenza, però i fondamenti sono sempre quelli. Chun dice a Remo: se non respiri correttamente non ti muoverai correttamente. Pietoso, vedo che l'hamburger mortale ha fatto il suo lavoro malvagio. Dobbiamo espellere il veleno dal tuo corpo e ricostruire. E mentre lo dice gli sta saltellando sullo stomaco. Poi, sai perché gli americani lo chiamano fast food? Perché li accelera sulla loro strada verso la tomba. Poi, la mente allenata non ha bisogno di un orologio. Gli orologi sono un trucco di fiducia inventato dagli svizzeri. L'assassinio professionale è la più alta forma di servizio pubblico. Poi, quando Remo gli chiede: ma tu sei vecchio? Di nuovo viene il vecchio. Vecchio? Per un'albicocca sì, per un cespo di lattuga ancora di più. Ma per una montagna non sono nemmeno iniziato negli anni. Tuttavia, per un uomo sono giusto. Poi, la paura non è altro che una sensazione. Sempre modesti, senti, comunque. Sempre modesti. Senti caldo, senti freddo, ti senti affamato, ti senti arrabbiato, ti senti spaventato, la paura non può ucciderti. Purifica la tua mente dalla paura e credi in te stesso. Senza questa convinzione io non potrò fare nulla per te. Come vedete, sempre queste frasi, insomma, da proverbio cinese sarebbe da dire, però qui c'è anche un po' più di ironia, se vogliamo, rispetto agli altri due che abbiamo visto, ma il modello rimane sempre quello. E ora ti dirò una cosa strana: sebbene Yoda rimanga il mito per tutti, il maestro d'eccellenza, dai, io ho una simpatia immensa per Chun. Tant'è vero che quando ho scoperto che esistevano questi fumetti, pian pianino ce ne sono una valanga, un centinaio, me li sono andato a cercare e a leggere, perché sono anche fatti bene, sono carini, e quindi vale la pena, è una cosa che consiglio di fare. Adesso abbiamo altri due che magari diciamo un po' velocemente, perché questi si distaccano, perché come vi ho detto, a me interessava parlare assieme a voi dei maestri. Quindi uno è il professor X, cioè Xavier, stiamo parlando degli, avete capito, sì, degli X-Men. Quindi può darsi che comunque ci sia la ripresa del maestro, però è chiaramente qui è una figura totalmente diversa. Adesso non voglio nemmeno rubare troppo tempo, perché almeno questo credo sia abbastanza conosciuto da tutti. Quindi chiaramente Xavier sappiamo che è un mutante, per la patria popolare e leggermente degli altri. Quindi vuole dal rifugio addestrare mutanti di tutto il mondo e crea, gestisce una scuola privata dove questi mutanti potranno essere appunto sia protetti che addestrati, con il fine ultimo di promuovere la coesistenza pacifica fra gli umani e mutanti. La cosa particolare che mi piace del professor X è che egli comunque, proprio per far vedere la potenza del suo cervello, è in realtà un paraplegico su una sedia a rotelle, e io credo che sia proprio voluto per porre l'attenzione sulla capacità della sua telepatia, capisci? Quindi praticamente gli hanno tolto la fisicità, se così vogliamo dire. E come sappiamo lui si oppone totalmente ai metodi violenti, come il suo vecchio amico, e di nuovo, perché poi queste cose si ripetono all'infinito, che è nemico adesso, che è Magneto. Quindi di nuovo, insomma, non c'è bisogno di andare nei dettagli di nuovo, però si nota di nuovo il parallelismo in molti punti, meno che negli altri, però c'è anche qui. E infine, a questo punto ne parliamo, così poi magari vediamo un po' di tirare un attimo le somme. Io ho messo Gandalf. E perché ce l'ho messo? È ovvio che il Signore degli Anelli non fa parte degli anni che noi trattiamo, però. Beh, diciamo di no. No, però fa parte negli anni in cui è stato letto, soprattutto. Cioè, il successo enorme probabilmente è stato, almeno per i libri, in quegli anni. Più avanti, come sappiamo, per i bellissimi quelle versioni cinematografiche che hanno fatto. E anche perché, proprio perché è più vecchio, l'ho potuto mettere per vedere qualche differenza. Quindi non c'è bisogno di dire, insomma, che Gandalf è uno dei protagonisti del romanzo di Tolkien, quindi il prima l'Hobbit e poi il Signore degli Anelli, certo. Quindi è un mago ed è il leader e il mentore della cosiddetta Compagnia dell'Anello. Pare che Tolkien prese il nome Gandalf dall'antico Catalogo dei Nani, che è un testo che c'era nel nord Europa. Quindi egli è un mago e un portatore del cosiddetto anello del potere, e quindi egli ha, sebbene egli abbia un grandissimo potere, lavora lo stesso per incoraggiare e persuadere. Di solito è associato al fuoco. Quindi lui parte come Gandalf il Grigio, questo è importante, che possiede una grande conoscenza e viaggia, e la sua missione è di contrastare Sauron. Questo penso ce lo ricordiamo tutti. In teoria è uno spirito immortale, però essendo in un corpo fisico nella Terra di Mezzo può essere ucciso in battaglia. Lui verrà rimandato nella Terra di Mezzo per completare la sua missione. Stessa cosa degli elfi alla fine, perché pure loro sono immortali ma possono morire in battaglia. Infatti Gandalf, come tutti gli stregoni, fa parte di quella razza di mezzo tra gli dèi e gli umani nella mitologia di Tolkien. Infatti, e poi egli verrà rimandato, esatto, prima era il grigio, viene rimandato come Gandalf il bianco per finire la sua opera. E Tolkien lo descrisse in realtà come un angelo incarnato, però non è molto diverso dagli elfi, chiaramente. Ci sono senz'altro dei paralleli che possiamo fare. In questo caso, sì, è un maestro, probabilmente è più corretto chiamarlo come una figura guida più che un maestro, perché è quasi un assistente, un deus ex machina che assiste il protagonista, quindi Bilbo o Frodo più avanti. Quindi in questo caso chiaramente non è ispirato a quelli di cui abbiamo parlato prima, è più ispirato ai classici, come non so, la Sibilla Cumana nell'Eneide o Virgilio nella Divina Commedia. Sì. Quindi è senz'altro una figura più classica, però l'ho voluto mettere anche per far vedere che, insomma, la figura è antica, c'è da sempre. Quello di cui abbiamo parlato prima è una trasposizione cinematografica americana, poi alla fine è questo, che ha avuto colpo, ha avuto successo e poi ha dato ispirazione anche a tutti gli altri, insomma. Sì. Eccoci qui. A me viene in mente Albus Silente e Harry Potter invece, ma è una roba molto più moderna, però anche lì... Beh, però diciamo che la figura dell'antico saggio, diciamo così, il Deus ex machina, perché in realtà poi alla fine Gandalf, come tante figure come lui nelle mitologie fantasy, quindi in tutta quella grosso filone di letteratura del mondo fantasy, in realtà è una figura ben precisa, che è più attiva del saggio alla Miyagi, che comunque è veramente un maestro, un insegnante. Lui invece è più una persona, cioè diciamo queste figure qui sono quelle che conducono, diciamo, l'insieme degli eventi, no? E quelli che indirizzano gli eventi a favore della grande battaglia, che di solito è la grande battaglia contro l'oscurità, no? Quindi è, diciamo, questo è un meccanismo che nei libri fantasy, in particolare nella saga di Shannara, quella di Terry Brooks, che ovviamente sì, prende a piede mani dal Signore degli Anelli, cioè lì c'è Allanon che è Gandalf fondamentalmente, e come Gandalf, che ha diversi svariati eoni di anni e passa, anche Allanon è, alla fine sono diverse centinaia di anni, perché lui faceva il sonno dei druidi, no? Quindi alla fine anche lui ha, come posso dire, condotto gli eventi in diverse ere, in diverse generazioni. E devo dire che poi alla fine non lo trovo del tutto inappropriata la scelta di Gandalf, anche se apparentemente de base sono due cose completamente diverse, cioè nel senso proprio due tipologie diverse, insomma. Poi vabbè, Gandalf no, è diversa. È diversa, diciamo che la sua tipologia è quella di Deus Ex Machina. Esatto, sì, bravo. Per farti un parallelo, a me viene in mente, nel ciclo della fondazione di Asimov, R. Daniil Olivav, il robot, che si vede alla fine, che poi noi scopriamo, avendo letto tutti i libri della fondazione, che è quello che manovra i fili. La parte bella del romanzo di Asimov è che pian piano tu vedi dei livelli successivi, quindi prima vedi la fondazione, poi vedi la prima e la seconda fondazione, poi vedi Gaia, poi vedi a un livello ancora superiore R. Daniil Olivav, okay? E la cosa bella è vedere queste cose. C'è anche in altri romanzi di fantascienza, adesso non mi voglio allargare. Invece la riflessione che volevo fare con voi è questa: a me è venuto in mente una cosa, cioè che perché hanno avuto successo queste figure, hanno fatto libri, hanno fatto un successo immenso, si ripetono queste cose fra i ragazzi della nostra generazione. A mio avviso questo genere di mito ha sostituito quello che magari per i nostri genitori, per quelli più vecchi, potevano essere, almeno in parte, prendetela come una provocazione anche questa, quelle che erano le ideologie. Non so se quello che sto dicendo ha un senso. Le ideologie è anche un certo innesco con la religione, no? Quindi poi alla fine che poi alla fine anche. Ci sono dei parallelismi, no? Comunque il rapporto dell'uomo antropologico con un credo, qualsiasi esso sia, e alla fine vuoi questo spirituale, vuoi questo politico, alla fine sì, probabilmente in qualche maniera adesso in particolare forse potrebbe sostituirlo. Negli anni 70 sta cosa non, negli anni 80 secondo me c'aveva meno valore, cioè esistevano ancora le ideologie, insomma, e forse anche a discapito della religione. Però se tu vai a vedere la figura di Miyagi rispetto a quella di Yoda, che per quanto possa sembrare anch'essa spirituale, in realtà è più saggia, mentre la saggezza di Yoda è più spirituale, cioè è proprio più legata all'illuminazione, no? Cioè, infatti lui dice la materia grezza, la materia è grezza, cioè non c'è niente, è vuota, l'illuminazione è dentro, siamo noi che siamo parte della creazione, no? Perché poi in questa visione fantasy di Star Wars, dove c'è la forza che poi è la magia, in realtà la magia è questa energia universale, che altro non è che poi la puoi associare anche con la divinità, no? Quindi con la presenza di una forza divina, no? Quindi ci sta, no? Sono tutti passaggi che ci si sì, quasi adesso. Non voglio rovinare, perché come ho detto questa vuole essere una puntata divertente, sembra quasi una visione panteistica che poi si ritrova, che vuol dire dove Dio coincide con l'universo in maniera fisica, che si trova in diverse dottrine. Però a mio avviso, guarda, che negli anni 80 invece non c'era tutta questa attenzione per la politica, per l'ideologia. C'era in alcuni, ma a mio avviso, questo è il mio ricordo, il mio pensiero, ma anche quello che ho trovato, nella grande maggioranza delle persone erano abbastanza disillusi da queste cose. Quindi secondo me anche per questo nasce in quell'epoca quello che noi chiamiamo adesso fantasy e quant'altro. Quindi nasce veramente un interesse che va al di là dell'interesse per, mi piace leggere un genere, diventa quasi uno stile di vita, se vogliamo vederla così. Insomma, questa era un pochino una riflessione, poi non so che valore. No, vabbè, lo spunto c'è, andrebbe poi approfondita magari in altre sedi, diciamo così. Però diciamo che l'aggancio c'è, e ci sta anche fare una riflessione pure su quando eravamo futuro, anche quando la puntata è brillante. Davide. Ah, io penso si sta andando sul profondo. Io stavo a fare le copertine di YouTube. No, si stava sul profondo. No, io invece volevo andare sul più sul frivolo, no? Vai. Che era arrivare poi al dunque, no? La puntata inizia con una domanda. Per il momento non c'è stata la risposta, no? Tutti abbiamo detto che preferiamo Yoda, va bene, no? Ma perché? E quindi, cioè, perché c'è questa preferenza? O meglio, questa è una bella domanda. Simone ha detto che preferisce Yoda, però mille volte Yoda, anzi, se non ricordo male, no? Perché così tanta questa differenza tra uno e l'altro? Qual è quello che ti ha lasciato? Io nel mio posso dire che tra i due, che tutte e due abbiamo visto, hanno analogie. Dalle quali sono rimasto sorpreso pure io, e che quindi potenzialmente hanno lo stesso valore, se vogliamo, in qualche modo. Però io quando li ho visti a suo tempo, e per quello che mi ricordo e per quello che mi è rimasto dentro, senza andare troppo sul profondo, c'è questa differenza grossa, dove uno è in un ambiente fantascientifico e uno è in un ambiente più reale, no? E soprattutto quello reale è quello che, anche se sei bravo, al massimo rompi le ossa a qualcuno, ma nell'altro mondo, se sei bravo, col pensiero sollevi delle astronavi, voglio dire, tra i due scelgo chiaramente quello che è, come potere tra virgolette, è quello che mi fa sognare di più, tra virgolette, mi fa sognare poco saper muovermi bene con le mani, fare le capriole e dare due schiaffoni alla Terence Hill, al pistolero, così senza che se ne accorga, mentre invece mi dà l'idea che sia molto più potente quello che Yoda può trasmettere e che gli Skywalker insomma imparano. Però siamo ovviamente in un ambiente di fantascienza contro un ambiente di realtà. Però che mi ha impressionato e che mi è rimasto più dentro, ovviamente, ed è il perché mi piace di più Yoda e comunque tutto il mondo della fantascienza, probabilmente perché c'è di mezzo la fantascienza nel mio caso specifico, che mi ha portato ad avere questa preferenza. Però come abbiamo visto dal testo, se leggiamo bene in modo più profondo, sono praticamente quasi molto simili, insomma. Io dal mio invece sì, la fantascienza, sì, il fantasy, sono comunque aspetti che comunque mi hanno sempre affascinato, mi hanno sempre appassionato, anche se io sono prevalentemente un trecchiano più che un amante di Star Wars. Ho amato i primi tre film di Star Wars tanto, però per me Star Trek assume una dimensione superiore da questo punto di vista, però questa è una questione di visioni personali. In realtà il legame con Yoda è perché secondo me è stato il primo, cioè in qualche maniera, ed è un legame più che di scrittura, più che di valore filosofico, via dicendo, è proprio un legame emotivo, affettivo. Cioè a me Yoda comunque, che poi l'effetto Yoda è lo stesso effetto del Baby Yoda in Mandalorian, cioè comunque alla fine Yoda era sì il saggio che ti faceva le perle di saggezza, ma ti faceva anche tenerezza, e comunque l'uomo che dopo aver compiuto la sua missione muore, cioè lasciandoti poi tra l'altro con un messaggio sulla morte, no, in qualche maniera. Quindi diciamo che secondo me Yoda proprio come scrittura è indiscutibilmente superiore proprio a Miyagi, però penso che al di là di un fattore proprio strettamente narrativo, è proprio una questione affettiva, insomma, secondo me. Cioè, me sono proprio affezionato alla figura di Yoda e penso che come me in tanti, perché secondo me la genialità del fatto che Yoda ha vinto e vince perché è Yoda, cioè non perché comunque insegna la forza a Luke, insomma, anche se poi dopo comunque nel contesto ci sta chiaramente anche quello, però Yoda è uno, è un affare con le orecchie giganti, pelose, verde, che è vecchio allampanato, che non gli daresti due sordi, e quindi gli vuoi bene, cioè nel senso, a Yoda gli vuoi bene, dai. Ma allora, a parte che dichiareremo il vincitore adesso fra poco, però dico anch'io la mia. Allora, fra Yoda e Miyagi anch'io preferisco Yoda, questo perché l'originale, perché come vi ho detto, a mio avviso ci sono una serie di ripetizioni anche carine, però è l'originale. Mi piacque moltissimo il modo in cui fu presentato, cioè la scena che abbiamo ascoltato prima, dove Luke si presenta, c'è questo strano coso peloso alto 20 centimetri, quello che è, che parla in quella maniera, che all'improvviso cambia espressione, cambia tono della voce, e basta quello per farlo diventare il potentissimo maestro che è quello che è. È chiaro che poi l'universo, io preferisco invece Guerre Stellari più che Star Trek. Perché? Perché con tutti gli errori che ci sono, e parlo di quello vecchio, voi sapete cosa penso degli ultimi episodi, quindi non mi ripeterò, con tutti gli errori che sono stati fatti e quant'altro, comunque crea un universo bellissimo, profondo, che unisce le varie cose, compresa, abbiamo visto addirittura la parte, non voglio chiamarla spirituale o metafisica, comunque con qualcosa che va un po' al di là. Star Trek, che è bello perché ha iniziato certe cose, è troppo buonista per il mio punto di vista, soprattutto le prime serie. Sono un fan anche di Star Trek. Beh, signora, sono proprio due contesti proprio completamente diversi, secondo me non possono essere anche accantonati. Non possono, esatto. No, non per meglio o peggio, non per meglio, è proprio perché certo. Sono proprio due cose diverse, secondo me. Certo, lo facciamo giusto perché ci vogliamo divertire, esatto. Non avrebbe... Senti, però Andrew in chat ci dice una cosa, cioè, allora Carlo Modesti Power, che io onestamente non so chi sia, devo dire la verità, scusami, perdonami. Descrive lo Spirito Santo come la forza di Guerre Stellari. Alla fine c'è l'energia che collega tutte le cose, che riempie lo spazio. Alla fine, questo insomma dovrebbe essere, no? La presenza di un divino, no? Nel senso più teologico possibile. Però vabbè, comunque torniamo a noi. Scusa, Roberto, vai. No, ma è vero, vuole essere una rappresentazione così, in parte la Gaia di Asimov, e ti ripeto, non in questa sede, ma alcune dottrine, quella di Rosa Croce, tanto per dirtene una, ma ce ne sono alcune che non vanno tanto lontano da queste cose. Comunque, allora io dichiarerei quindi il vincitore, se puoi mettere il contributo. Aspetta perché qua no. Ora non la tireremo più fuori. Così sicuro sei tu? Sempre per te non può essere fatto. Tu non senti ciò che dico. Maestro, spostare delle pietre è una cosa. Questo è del tutto diverso. No, non diverso. Solo diverso in tua mente. Devi disimparare ciò che hai imparato. D'accordo, ci proverò. No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare. Già. Tutto sommato un principio estremamente condivisibile che ancora oggi ci riportiamo in tante altre situazioni. Direi che basta qua, no? Lo senti tutto? No, va bene, era chiaro. Il messaggio era questo. Anche perché e quindi sappiamo tutti a memoria come continua. Chi è il vincitore? E quindi lo metto verde, ha stravinto questa sera. Ma guarda un po'. E, allora. di nuovo, spero abbiate capito insomma, lo spirito giocoso di tutti questi, è che facciate un attimo una riflessione su questo fatto, come molte di queste figure abbiamo visto, quindi non solo Yoda, ma anche i protagonisti, i cattivi, alla fine sono degli stereotipi che si ripetono nel 90% dei film e non solo degli anni 80, qui ci siamo limitati, come vi ho detto, a questo periodo perché questa è la trasmissione, ma se fate un po' mente locale anche su quelli più nuovi vedrete che sono più o meno sempre la stessa cosa. Si può però dire che Yoda è il capostipite e quindi sicuramente andava lui la vittoria. Io invece diciamo che senza trovare così tanti parallelismi, ho fatto la riflessione su tutto questo discorso, su tutto quello che abbiamo detto, no? E dicevo, però un mentore, un maestro praticamente è un mentore, è colui che viene usato come modello per ispirarsi. E io, se devo dire la verità, quando ho appunto riflettuto un po' su questo titolo, su questa cosa, che dove all'inizio dicevo, ma che titolo è, cosa significa, io invece ho fatto un altro diverso pensiero all'inizio, che lo voglio comunque comunicare, anche se magari non c'entrerà molto, però io non avevo messo in classifica né Yoda né Miyagi, ma in effetti avevo messo il capitano Kirk o Jean-Luc Picard, due capitani che per centinaia di avventure diciamo seguito con passione eccetera, e che in un certo senso mi hanno trasmesso dei valori, proprio me li hanno trasmessi a me, e ho imparato da loro tante cose, valori positivi che nel loro piccolo comunque sono serviti a formare, credo, i miei pensieri o il modo di essere, ed è, ci credo proprio, io, quando li guardavo i telefilm da ragazzo, e mi ricordo che io volevo essere come loro, ma certo perché andavano nello spazio, facevano cose fantastiche, no? Però devo dire che secondo me hanno trasmesso anche a me delle cose, e quindi li considero nell'ambito cinematografico, diciamo narrativo, così, dei mentori e degli insegnanti veri e propri, che hanno insegnato non solo ai loro personaggi che erano presenti nei telefilm, ma anche a chi guardava il telefilm, secondo me. Magari non c'entra molto appunto col discorso, però. Ma certo che c'entra. No, in realtà ci sta. Però posso dire che io, per esempio, parlare di James T. Kirk e Jean-Luc Picard lo farei, per esempio, una puntata proprio intitolata Capitani Coraggiosi. Perché poi in realtà, nella serie classica, il mentore, la persona saggia, comunque quello che conduce un po' la saggezza non è Kirk, ma è più Spock, no? Spock è comunque Kirk. Il guascone, quello che infonde il coraggio, che serra fine è quello che però alla fine risolve la cosa, sì, chiaro, con l'aiuto di tutti, sì sì, però è il capitano. Proprio lui è lo stereotipo del capitano coraggioso, quello che comunque magari a volte se ne frega delle regole, che magari va oltre magari certe cose che magari non avrebbe dovuto fare, però allo stesso tempo lo fa in maniera proprio infondendo il coraggio, infondendo la fiducia, infondendo l'orgoglio, no? Dando quel senso d'appartenenza alla nave, no? a quel mondo, e su questo senza dubbio. Picard già è il capitano più saggio, cioè quindi è più il mentore, più il maestro, è quello che a volte anche in maniera paternalistica, a volte in maniera anche un po' esagerata, cerca invece di infondere un certo tipo di saggezza. Ricordo, per chiudere, una cosa che non c'entra niente, però proprio per citare insomma questa cosa di Star Trek, la primissima puntata, il pilot, anzi la fine della prima parte del pilot di Next Generation, quando Data scorta McCoy, che secondo i dati della flotta stellare aveva 137 anni, esatto, e McCoy, cioè alla fine parte la battuta sull'androide, il vulcaniano e roba del genere, lui fa quel discorso, dice questa nave questa è una nave moderna, però ha un nome antico e glorioso, trattala come una bella signora e ti riporterà sempre a casa. Ecco, Star Trek nella sue iconografie ha sempre puntato sulla rappresentazione del senso d'appartenenza, al di là del concetto strettamente ideologico di un universo utopico dove virtualmente non esiste un'economia, no? dove non esiste più la povertà, dove non esistono più le malattie e via dicendo. Però ecco, il senso dell'uomo atto a migliorare se stesso e tutto il resto che lo circonda, no? E il senso d'appartenenza con la nave. La nave era la nave, Star Trek è la nave. Cioè, poi dopo hanno fatto Star Trek con altre navi, però Star Trek fondamentalmente è la nave, insomma. E questa cosa mi ricorderò sempre, questo primo episodio, che lì per lì, nonostante insomma la prima stagione di The Next Generation era una schifezza fondamentalmente, anche se poi io l'ho amata uguale, quel pezzo mi ha emozionato. Cioè, ecco, vedi che poi alla fine non si sa perché si è andati a parlare di una cosa che non c'entrava un cazzo, poi fondamentalmente. Però no, è vero. Sotto anche la musica di Guerra Stellare. Sì, esatto. Ma io qui bestemmie a tutto spiano, che Alex già mi sta insultando, lo so, non fa niente, dai. Ma tra l'altro, una bella versione, il pianoforte è molto carino. Molto bella, sì. Allora, due cose rapide. A me piace anche Janeway come capitano. So che sono un po' in minoranza, no, però mi è piaciuto anche a me, devo dire che mi è piaciuto anche a me, però poi alla lunga un pochino acceduto. Sì, come vabbè, perché forse durano troppo alcune serie, però tre serie consecutive di 7 stagioni l'una era tosta, e poi diciamo che Genovi secondo me subisce il fatto che non è stata in grado di evolvere come personaggio, come invece è successo a Picard. O come è successo a Kirk. Vabbè, Kirk ci ha avuto tutto un altro tipo di evoluzione, però tipo Sisko ad esempio, insomma. Però comunque sì, non era male. Io arrivo addirittura a dire che secondo me fra i comandanti probabilmente lei è la migliore, però questo di nuovo vado controcorrente. Buona esagerata. Io vado controcorrente. Lascia stare l'amore per Kirk, per cosa, per Picard. Probabilmente perché sei probabilmente di una fascia temporale diversa. Per esempio, io ho visto per primo Next Generation quando ero un bambino, e quindi l'ho vissuto in un modo diverso, e mi sono affezionato molto, e quando poi sono arrivati gli altri mi sono ci ho messo del tempo a riaffezionarmi. Parlo della classica. Cioè, della classica mi sono innamorato, poi delle successive ci ho messo sempre di più ad innamorarmi. Next Generation mi sono innamorato ancora una volta, ma tutte quelle che sono venute dopo ci è voluto parecchio, è sempre stato più difficile. Chi invece parte con Voyager probabilmente si innamora di Voyager e considera vecchi, vetusti. Vabbè, io sono purtroppo vecchietto, ho visto Star Trek, però è quella che mi dà, forse per il mio background, qualcosa, l'idea del vero comandante. Comunque questo è un cosa, lei era un po' mamma molto soggettiva, no? Comunque sono cose soggettive, ecco, una cosa di questo, sì, andiamo a, cioè nel senso andiamo anche perché sai che a me non piacciono le puntate di 92 ore, vado anche su questo controcorrente. Però tornando a quello che ha detto Davide, non c'è nulla di male nel prendere come modelli e protagonisti delle persone fantastiche. Adesso non farò discorsi sulla religione, ma siamo così certi che non sia la stessa cosa per alcuni ruoli religiosi? Non c'è nulla di male, addirittura sono d'accordo. Sono delle tecniche di motivazione, cose che usano proprio questo, cioè di immaginare di avere un mentore che può essere quello che si preferisce e pensare cosa farebbe lui in questo momento. Può essere chiunque, può essere 007, o può essere il capitano, può essere chi volete voi. Per cui non c'è nulla di vergognoso, di male nel fare questo genere di operazione, a mio avviso. Assolutamente d'accordo al 100%. Io penso che in realtà i personaggi di fantasia, quando sono scritti in una certa maniera, soprattutto per quanto riguarda me, un certo tipo di letteratura più classica, in realtà sono personaggi che ispirano. E in diverse fasi della nostra vita abbiamo avuto diverse ispirazioni, tra i quali ovviamente elementi che vengono dalla fiction letteraria o anche cinematografica. Ci sta, io lo condivido al 100%. Come i romanzi prima, perché assolutamente. Io ho detto, penso poi manga, perché no? Sì, no, se il contenuto c'è entra dentro bene, funziona. Ma io penso che fa parte proprio della natura dell'uomo questa cosa, cioè comunque il cercare un'ispirazione, e l'ispirazione la trovi su ciò che per te è più familiare. C'è chi legge tanti libri, c'è chi guarda tanta televisione, c'è chi legge molti manga, per esempio, insomma, quindi alla fine ci può stare benissimo. Non trovo niente di... C'è chi ascolta Runtime Radio. Esatto, non trovo niente quelli di... Sono un po'... Quelli sono strani, po'... sono strani forti. Sì. Soprattutto quelli che comprano le tazze fluo. L'ho ordinata, ma non fluo. Scusa, ma il massaggiatore colorato non lo mettiamo in catalogo? No, però stanno per arrivare delle cose meravigliose. Che, ragazzi, stanno per arrivare delle cose meravigliose. Lo dico subito. Il marchio sarà Runtime Lovers... E ragazzi, saranno delle cose meravigliose. E secondo me le capiranno solo quelli che seguono Runtime Radio, penso quasi da sempre. Insomma, quindi chicche, tormentoni che hanno fatto parte della nostra storia e alle quali rendiamo omaggio con queste cose che stanno per arrivare. Quindi abbiate fede. L'oscilloscopio? Golden Shower, forse. No, però più o meno ci avete capito, insomma, va bene? Va bene. Bella puntata, non gli avrei dato... No, scherzo, in realtà non avevo capito, ma come ho detto poi alla fine, leggendo e stando qui a chiacchierare, ti rendi conto di quanto aveva senso sta cosa, cioè nel senso... Mi dispiace che Carlo è dovuto andare via, ma va bene, dai ragazzi, poi riprenderemo discorsi simili, insomma. Ho detto, magari faremo una puntata sui Capitani Coraggiosi, che sarebbe figo, perché lì pure ce ne sono belle battaglie. Vai, Roberto. Vuoi leggere la posta, Simone? Ah, cazzo, mi ero scordato. No, leggila tu che non c'ho il documento aperto. Dato che è la tua puntata, allora, quindi, insomma. Ci scrive Francesco Mogliarisi, a te più che altro. Grazie Simone per questo programma. Io sono del 1971. Quanti ricordi mi fate rivivere? Avanti così, siete grandi. Sì, vabbè, scrivono a me. Esatto, scrivono a me perché, cioè, nel senso, perché comunque so magari la persona che, con la quale hanno più familiarità da tanti anni, ma in realtà, ragazzi, il grazie va a tutti quanti perché è stata un'idea comune e secondo me funziona proprio perché lo stiamo facendo con lo spirito giusto, tutto sommato. Quindi grazie a voi. E di divertirci e spero di divertirvi. C'è Gianluca Mattei che ci scrive che per la prima volta ci ha ascoltato in diretta anziché in podcast, si è divertito e ci dice bravissimi, e noi ringraziamo anche Gianluca. Infine ci scriveva questo po' di tempo fa Fabio Gregoroni, ci scusiamo perché rispondiamo solo ora, sulla puntata su Chernobyl, che le tre persone che entrarono nella piscina del reattore per svuotarla non morirono ma sopravvissero, ed è vero, lo confermo. Su moltissime fonti venivano dati come morti, fortunatamente, aggiungo, invece si è poi scoperto che morti non erano, okay. E quindi ha ragione ad aver puntualizzato. Però era più poetico se erano morti. Se erano morti era più, poracci. Poi c'è anche Mauri che dice sul messaggio, penso, sembra WhatsApp quasi, perché lo vedo come screenshot. No, Maurizio, penso che è un messaggio a Carlo quello, sì. Ah, ok. Comunque, bellissima puntata sulla musica anni 80. Questa volta Pizzi ti ha smazzolato un poco, ma da affezionato ascoltatore vi chiedo per favore di parlare anche dei video musicali. Senza l'argomento sarebbe monco. Ciao Carlo, si scrive a Carlo, però diciamo è un messaggio per tutti noi. E dei video musicali credo che comunque ne parleremo. Sì, sì, è inevitabile, insomma. È inevitabile, come diceva qualcuno, insomma. Bene. Bene, bella puntata, grazie ragazzi. Roberto, vi ricordo martedì alle ore 14 e non mercoledì come è successo questa settimana, perché io sbaglio i numeri, ragazzi, cioè vedo un 13, metto il 12, quindi, oppure il contrario. Ma mercoledì c'è la live quell'altra. No, però martedì alle ore 14 esce, ogni martedì alle ore 14, finché ovviamente... avremo la forza e l'energia, esce Delenda Cartago, quindi la prossima puntata, Roberto, è su? La prossima puntata parleremo della rivoluzione cubana, ma vista in un modo un po' diverso. Okay, anticipo solo che se guardate le foto di chi entra a La Habana, quando entrano appunto dopo la fuga del dittatore, ci vedrete tre persone, di cui una sola è sopravvissuta. E altri hanno avuto cattiva sorte in modo diverso. Noi quindi parleremo di quello che è accaduto, però prendendo un punto di vista diverso che in Italia non trovate spesso. Comunque in puntate, quindi per un paio di mesi vi tedieremo. Ok, benissimo. Davide Gatti, grazie anche di essere stato. Tu invece che novità ci presenti? Ovviamente Survival Hacking come podcast è momentaneamente in pausa. No, invece no. E invece per, no, aspetta. Beh. Nel senso che mercoledì, martedì uscirà un episodio speciale. Così per non lasciarvi a bocca asciutta, okay. Uscirà lo specialino e quindi qualcosa esce. Invece in realtà tu sei concentrato tutto sul canale YouTube dove stanno uscendo fuori i Big Money. E Big Money, oddio, Big Money no, però comunque si sta coltivando. Sì, sì, no, no, va bene. Bellissimo, bellissimo progetto. Sono contento perché il fatto che poi alla fine arrivano comunque i risultati con la costanza e anche col fatto che uno abbiamo avuto l'intuizione, quindi alla fine lui ci si è dedicato e sta venendo veramente fuori un bellissimo canale che sta creando una community, e questa è la cosa più bella sui canali YouTube, che poi alla fine, tra l'altro anche a vantaggio vedo anche il Riot, Technopils Riot su Telegram, che arrivano insomma nuovi amici anche grazie al canale YouTube di Davide. Quindi insomma ogni mercoledì, giusto? No, sì, ogni mercoledì sì, sì. Alle 14 un nuovo video. Okay. Quindi, ci sono comunque delle novità anche lì. Ci saranno delle novità a breve, nel senso che attiverò quello che è il discorso Patreon, dove su Patreon ci saranno dei contenuti esclusivi che verranno proposti. Adesso, se sarà questa settimana o la prossima, vedremo. Vabbè, ci certo. Saranno comunque ulteriori contenuti, tante cose, verrà fatto un video che presenterà questa cosa, quindi poi vi aggiorneremo benissimo, con questo. Benissimo. E ricordiamo di nuovo, io comincerò a rompervi le scatole, una cosa da non perdere per gli appassionati della storia dei videogiochi e anche in parte dell'informatica, assolutamente inedita, che stiamo preparando. E che non mi dirò. Hai ragione. E Davide, invece, la prossima settimana sta a te. Sì, avevamo già anticipato. Io, diciamo, il titolo è provvisorio, ma semidefinitivo: quando per divertirci bastava l'immaginazione, dove appunto racconteremo quando c'era un momento della nostra vita che molti di oggi non ricordano quasi neanche più, quelli giovani di oggi neanche se lo immaginano, dove riuscivamo a fare tutto quello che oggi fanno i ragazzi di oggi senza avere però niente. Esatto, è vero. Vabbè, sempre senza fare il giochino, era meglio, era peggio, insomma, è com'era. Cioè, no, com'era, certo. Non c'erano i telefonini, non c'era niente, avevamo un bastone piuttosto che un sasso, che ne so, quello che c'era, e facevamo una cosa che ci divertiva allo stesso modo, se vogliamo, no? Passavamo le giornate, ridevamo, scherzavamo, arrivavamo a casa tutti rotti, ma alla fine era stata una bellissima giornata. Infatti. E come diceva sempre Bonaventura Di Bello, parlando delle avventure testuali che utilizzavano la scheda grafica più potente dell'universo, ossia la nostra fantasia. Ragazzi, grazie a tutti, vi ricordo sempre di seguire runtimeradio.it, da domani riparte la programmazione giornaliera costante, tra l'altro sul sito trovate la sezione blog dove c'è il post che vi racconta qual è la programmazione, il palinsesto giornaliero di Runtime Radio, che come sapete oramai da diverso tempo trasmette 24 ore su 24 senza lasciare grossi spazi vuoti, ed è una unicità sulle web radio non professionali di questo livello, quindi siamo fieri di questa cosa, trasmettiamo ogni giorno contenuti nuovi, questo è grazie anche alla base dei tantissimi anni di contenuti che abbiamo prodotto. Ci mancano 30.000 download al milione di download, ragazzi, io inizio a dirlo, e se li sommiamo al milione di download di Italian Podcast Network, questo ti dice che se avessimo ricevuto 10 centesimi per ogni download saremmo tutti alle Bahamas a casa di Roberto Tomaiuolo, che è a casa alle Bahamas naturalmente. Certo, come certo. Però nel modo in cui l'ha detto Davide, cioè con l'immaginazione. Esatto. Beh, scusa, buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao, sono un tortiglione di grano saraceno ben dotato di sali minerali. Cerco un incontro ardente per sentirmi al dente. Con i tortiglioni Felicia, il benessere non è mai stato così invitante. Felicia, fatti di un'altra pasta.